Europa 24. E un saluto da Anna Migliorati e cominciamo allora proprio dal fronte economico con le previsioni d'inverno per l'Europa. La giornata comincia con le parole di Mario Draghi che da Francoforte dice ci sono forze nell'economia globale che cospirano per tenere bassa l'inflazione e poi aggiunge la Banca Centrale Europea non si arrenderà davanti alla bassa inflazione. Poco dopo la Commissione attraverso il commissario Moscovici presenta le previsioni economiche d'inverno. L'Europa continua a beneficiare di fattori positivi come il calo del prezzo del greggio, afferma il commissario, e l'euro più debole. Dunque ne hanno beneficiato le esportazioni e anche la domanda interna, ma ha risentito di alcuni fattori, quali il rallentamento delle economie emergenti e in particolare il caso Cina. Riviste le previsioni, mentre sono aumentati i rischi. Il PIL dell'Eurozona per il 2016 è rivisto al ribasso all'1,7% rispetto all'1,8% calcolato a novembre, ma la nota dolente anche per Moscovici resta l'inflazione. Per l'anno in corso è prevista allo 0,5%, dimezzata rispetto a quanto preventivato a novembre. La speranza è che risalga all'1,5% nel 2017 con salari più elevati, maggiore domanda interna e un aumento moderato del prezzo del petrolio. Anche per l'Italia, revisione al ribasso, anche se di poco, della crescita, mentre sale il deficit e il debito cala ma lentamente. Sulla flessibilità il commissario prova a fare chiarezza. L'Italia ha ricevuto 0,4 punti per fare le riforme strutturali, l'unico paese a godere di questa clausola. Su tutte le altre richieste la Commissione deciderà, secondo un calendario preciso, non prima di maggio e in rispetto delle norme. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E intanto proprio oggi la Corte di Giustizia Europea ha dichiarato parzialmente invalido il regolamento del 2006 che ha introdotto un dazio antidumping sulle importazioni di alcuni tipi di calzature dalla Cina e dal Vietnam. I giudici europei hanno sostanzialmente accolto i ricorsi presentati dalla società inglese Clark e dalla tedesca Puma con l'obiettivo di ottenere il rimborso dei dazi pagati per oltre 65 milioni di euro. E andiamo anche a Londra, dove dopo gli aiuti alla Turchia si apre il fronte degli aiuti alla Siria. L'Europa raddoppia, si punta in totale a 9 miliardi di dollari. Da 1,1 a 2 miliardi. Questo dovrebbe essere l'ammontare del contributo dell'Unione Europea per affrontare la crisi umanitaria determinata dai 5 anni di guerra in Siria. A specificare la cifra sarà oggi il presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, che a Londra partecipa alla conferenza dei donatori per la Siria. I contributi arriveranno in parte dai singoli stati ed in parte dal bilancio europeo e sulla falsa riga del fondo di 3 miliardi per i migranti in Turchia saranno destinati ai paesi che ospitano i profughi siriani, Giordania e Libano e le agenzie internazionali che li assistono, UNDP e UNHCR per esempio. Alcuni paesi contribuiranno anche singolarmente e per progetto, come la Germania, 1,2 miliardi di euro, di cui 570 milioni al World Food Programme, o la Gran Bretagna, che ha messo sul piatto 1,6 miliardi. L'Italia offre 400 milioni, di cui 150 in dono, 200 in soft loans, prestiti, e 50 milioni di cancellazioni del debito, in particolare a Giordania e Libano. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E infine la protesta. Questa mattina una bottiglia di olio extravergine siciliano ha fatto il suo ingresso a Strasburgo nell'aula del Parlamento europeo riunito in sessione plenaria. Un no all'aumento della quota di olio tunisino senza dazi nel mercato europeo dell'eurodeputato siciliano del Movimento 5 Stelle Ignazio Corrao, che già le scorse settimane aveva lanciato l'allarme per i produttori di olio. Ma noi per il momento ci fermiamo qui. Ancora un saluto da Anna Migliorati. Torneremo proprio dai parlamentari europei questa sera a effetto notte. Torna a Radio 24 You Zone. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.